Punto e a capo. Una settimana di attualità. Buongiorno da Elisabetta Fiorito, benvenuti a questa nuova puntata di Punto e a Capo per analizzare i fatti più importanti della settimana. Preso il killer di Brindisi, ma sono molti i dubbi degli inquirenti. In Emilia la terra continua a tremare, mentre il ministro della giustizia Paola Severino propone di utilizzare i detenuti per la ricostruzione del terremoto. Ancora polemiche sulla discarica di Roma dopo l'individuazione del sito a Pian dell'Olmo. La pagina politica svolta nel PD e nel PDL sulle primarie, mentre era ancora stallo tra i due partiti sulla legge elettorale. Polemiche poi anticasta per le nomine delle autority e per il no del Senato all'arresto di Sergio De Gregorio, coinvolto nel caso La Vitola. La crisi economica e il buco dei conti pubblici di 3,4 miliardi di euro, mentre la Corte dei Conti reclama per troppe tasse. In Inghilterra le celebrazioni del giubileo di diamante della regina Elisabetta, mentre il mondo della musica si mobilita per i terremotati. Un concerto si svolgerà a Bologna il 25 giugno. Ma partiamo dall'inchiesta di Brindisi. Preso il presunto killer Giovanni Vantaggiato, reo confesso dell'attentato alla scuola Morvillo Falcone, che però non ha fornito alcun movente. Gli inquirenti nutrono dubbi sulla dinamica dell'attentato dove ha perso la vita una ragazza di 16 anni. Vantaggiato non avrebbe agito da solo, ma coprirebbe complici e mandanti. Nell'interrogatorio avrebbe occultato il concorso di altri e due testimoni avrebbero visto un uomo la sera prima sul luogo dell'attentato che non corrisponderebbe al reo confesso. Ma chi è Giuseppe Vantaggiato? Ascoltiamolo nel servizio di Mariano Maugeri. È l'uomo invisibile, o almeno aspirava a essere tale, Vanni Vantaggiato, 68 anni, moglie e due figli, una florida attività di commercio carburanti, yacht e villa al mare a Porto Cesareo, una sfilza di terreni e negozi di proprietà a Copertino. Talmente paranoico da studiare ogni volta tracciati di campagna sempre diversi tra Copertino e Gallipoli per essere sicuro di non essere pedinato. I giudici pensano che ci sia il suo zampino in un attentato di 4 anni fa a Torre Susanna. Esplode una bomba con telecomando a distanza nel portaoggetti della bici di Cosimo Parato, un trafficante di carburante che non ha mai saldato un debito di oltre 300.000 euro proprio a Vanni Vantaggiato. C'è poi da dipanare la matassa che legherebbe l'autore dell'attentato di Brindisi al preside della Morvillo Falcone, Angelo Rampino. Il Sole 24 Ore ha appurato che nel periodo 2006-2009, durante il quale Rampino dirigeva l'istituto La Porta di Galatina, il fornitore di gasolio per riscaldamento della scuola era proprio Vantaggiato. Un'altra singolare coincidenza: Vanni progetta l'attentato alla Morvillo Falcone 2 mesi fa, gli stessi giorni nei quali Rampino ordina la porta blindata per l'ufficio di presidenza. Coincidenza o casualità? Il timore che dietro i silenzi di Vantaggiato possano esserci interessi inconfessabili, evasione delle accise e addirittura commissione di attentati contro terzi. Ci sono 3 esplosioni ancora senza paternità, ma con modalità simili a quelle della Morvillo Falcone, sui quali i magistrati vogliono vederci chiaro. Il terremoto di domenica 3 giugno in Emilia ha fatto crollare la torre a Novi di Modena, simbolo del paese. Il giorno seguente la nostra Raffaella Calandra ha intervistato il sindaco di Novi di Modena, Luisa Turci. È aumentato il disagio, la preoccupazione e la tensione, anche perché sono elementi che viaggiano sempre insieme, purtroppo. Però stiamo, io credo, facendo fronte. Poi le persone vorrebbero non essere mica ridotte così, vorremmo avere la vita di prima, un po' tutti, quindi è dura, però siamo in piedi, non siamo caduti con la nostra torre, noi siamo in piedi. Ecco, sindaco, appunto, la torre è diventata un po' un simbolo di questo sisma infinito, le ultime scosse l'hanno fatta crollare, per voi che cosa ha significato? Ce lo aspettavamo, devo dire, perché i danni che aveva subito erano veramente, si vedevano anche dalle foto che sono, insomma, che abbiamo visto, avete visto tutti. Speravamo che non ci fossero delle scosse così potenti come invece è stata quella di ieri sera da poterla recuperare, cioè perlomeno fare qualcosa, mantenerne un pezzettino in sicurezza che potesse dire era così, ma insomma non avevamo grandi speranze, devo dire. La caduta della torre è un incentivo per stare in piedi noi, perché bisogna che la legge vogliamo così, non possiamo piangere su quello che non abbiamo, dobbiamo cercare di andare avanti e di crearci altri motivi per andare avanti. Io sono andata ieri sera subito, ma c'era ancora tutto il polverone della caduta della torre. Oggi vado a Rovereto, nell'altra frazione, che è ancora direi messa peggio di Novi. In centro di Rovereto stanno crollando delle case praticamente nuove. È una cosa che non si capisce cosa ci stia succedendo su questo pezzo di terra del mondo, perché è una cosa, ma non lo so. Cioè anche delle case di costruzione case recente di dieci, stanno... Di dieci anni stanno crollando. È tutta una striscia di un quartiere che è tutta ridotta allo stesso modo, non so che, se ci sia una ragione geologica, non lo so. Mi immagino che voi siate in una situazione di particolare emergenza. Rovereto oltretutto era anche la città di Don Ivan, oggi ci sono stati i funerali. Esatto, stamattina i funerali a Carpi, quindi la situazione è così. Bisogna che ci facciamo fronte con le istituzioni, i cittadini, la regione, tutti dobbiamo stare uniti insieme. L'unica cosa che ci può portare fuori da questa roba, l'altra roba che io dico sempre che è indispensabile, è ricostruire e lavorare. Se non riprendi il lavoro noi non ci riprendiamo, perché noi abbiamo bisogno delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, della nostra gente instancabile, perché solo così possiamo farcela. E da questo punto di vista avete qualche indicazione ulteriore? Cioè lei sta dando qualche indicazione per poter casomai ricostruire immediatamente laddove non ci sono stati dei crolli così pesanti, far riaprire dei negozi? L'indicazione, ora noi siamo disponibili, abbiamo già le richieste, stiamo vedendo di fare riaprire dentro dei contenitori, negozi, quelli che ce lo chiedono, la parrucchiera, abbiamo individuato due aree sicure dove andarle a dislocare, lì ci siano questi container, questi box, quelli che sono, che dove lì si possa riaprire le attività che erano nei centri storici, che sono le attività di servizio, i negozi, cioè tutta quella cosa che è un po' la vita normale delle persone, le mettiamo in un posto sicuro e qui si riapre. Eravamo già pronti da ieri, adesso slitterà di qualche giorno, ma riprenderemo anche un po' di bancarelle dei mercati. Sulla ricostruzione, Roberto Ganzerli, assessore all'economia del comune di Mirandola, provincia di Modena, è intervenuto in 9 in punto al microfono di Oscar Giannino. Dunque, noi stimiamo che i tempi di ripresa possano essere di alcuni mesi, perché abbiamo delle situazioni abbastanza complesse e dai rilievi che stiamo facendo purtroppo stiamo constatando che alcune questioni sono più complesse di quello che ci aspettavamo. Per quanto riguarda le procedure, noi abbiamo perso, mi dispiace dirlo, un po' di tempo su un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha dovuto avere una interpretazione che è durata qualche giorno e sembra che oggi siamo arrivati. Tutti ce l'hanno scritto, quindi è proprio così, cioè è andata così. Purtroppo c'è stata questa ordinanza che è stata fatta ad hoc per questa situazione, probabilmente il nostro paese non era preparato ad una situazione di questo tipo, un po' me ne dispiace perché io davo per scontato che si potesse così prevedere che un terremoto potesse colpire una zona così densamente produttiva. Forse nella storia dell'Italia non è mai successo un caso del genere, cioè che un sisma colpisse una zona così densamente produttiva. Sta di fatto che è stata fatta questa ordinanza, c'è un passaggio che parla di certificazione di agibilità sismica e su questo abbiamo aspettato diversi giorni una circolare applicativa e questo sicuramente non ci ha aiutato nei tempi, devo essere molto sincero. Oggi sembra che la soluzione sia stata trovata e quindi contiamo di procedere il più velocemente possibile. Altra questione che noi abbiamo posto molto forte è il numero delle squadre per fare i rilievi che sono sempre state date un po' con il contagocce. Noi abbiamo fatto richiesta a gran voce perché tra le priorità questa è la prima, continua ad essere la prima. Più squadre abbiamo, più il processo di verifica si accelera e più possiamo sperare di ricominciare la nostra vita o di sapere quali sono gli interventi che le varie strutture devono avere e devono subire per tornare ad essere agibili. Soprattutto per quanto riguarda il produttivo, l'ordinanza fa riferimento a tecniche vigenti, a norme tecniche vigenti, quindi insomma anche interventi di una certa portata sulle quali noi non abbiamo niente da dire perché lo scenario del nostro territorio è completamente cambiato e quindi servono altri parametri. Ma questi ingegneri certificano l'agibilità sismica se sanno che cosa devono fare. Esatto. E questo è il punto, sì, perché sì, fino a che non è chiarito questo, loro non hanno i parametri per poter capire il grado dell'intervento che devono giudicare. Tutto questo. Raccoglie consensi la proposta del guardasigilli Paola Severino di utilizzare i detenuti per la ricostruzione post-terremoto in Emilia. Apre all'idea Luigi Pagano, vice capo del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, che esclude qualsiasi pericolo di fuga. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Un lavoro, chiamiamolo socialmente utile, anche se è un termine improprio, da tempo ci stiamo pensando, l'abbiamo anche attivato nel passato. Per esempio, io vengo da Milano e molte volte i detenuti sono usciti per situazioni di emergenza. Ricordo quando facevo uscire 30 detenuti a spalare la neve fianco a fianco con l'esercito, quindi mi trovo sicuramente favorevole. Il problema, ma questo credo che sia un fatto tecnico, è vedere in che forma è possibile questa nostra collaborazione e poi la selezione dei detenuti, ma questa è una cosa a cui siamo già avvezzi. I profili dei detenuti da impiegare quali sarebbero? Beh, persone che possono essere ammesse a misure alternative alla detenzione, oppure possono uscire in articolo 21, che sarebbe il lavoro all'esterno. Esiste un pericolo di fuga? Sicuramente no, perché le misure alternative sono previste già dalla legge. Già molte migliaia i detenuti sono in misure alternative, dall'affidamento in prova, in libertà, lo stesso lavoro all'esterno, in permesso ogni giorno, sono migliaia e migliaia di persone che escono e rientrano. Consideri che forse l'1% di persone non rientrano, ma parliamo veramente di migliaia di persone. Sarebbe soltanto il caso di utilizzarle per questa occasione, quindi non è l'occasione che ci fa inventare delle nuove misure, ma sono le misure che già esistono e che vanno adattate all'esigenza. Sulla discarica di Roma, dopo l'individuazione del nuovo sito a Pian dell'Olmo, il prefetto Goffredo Sottile, neocommissario ai rifiuti di Roma, è intervenuto nella trasmissione 24 Mattino al microfono di Alessandro Milan. Pian dell'Olmo è stata scelta perché era uno dei 7 siti indicati nel documento regionale, diciamo, di preselezione dei siti, appunto, e perché su Pian dell'Olmo c'è stata una convergenza, diciamo, da parte di tutti i protagonisti della vicenda. Io mi rendo pure conto dello stato d'animo, diciamo, delle persone. Sono situazioni note, purtroppo, e appena si cerca di fare qualche cosa insorge subito il comitato del no. Certamente non invoco l'impiego delle forze dell'ordine, né tantomeno dell'esercito. Se purtroppo ci sarà bisogno di un dell'intervento delle forze dell'ordine, immagino che ci sarà. In settimana Anna Marino ha sentito Gianluca Crosello, vicepresidente del coordinamento Riano No Discarica, che spiega le ragioni di questa protesta. Le nostre proteste derivano innanzitutto dal fatto che tecnicamente non è possibile fare una discarica a Pian dell'Olmo per motivi di carattere geomorfologico e idrogeologico. Pian dell'Olmo è una cava dismessa, è una cava con terreno tufaceo. Il tufo ha delle caratteristiche per cui il percolato potrebbe certamente infiltrerà, perché è un terreno fratturato. Quindi voi avete paura per le vostre case? Allora, abbiamo delle case a 100 metri circa dalla cava, abbiamo le falde che sono a pochi metri dal piano di cava, abbiamo il vincolo di esondazione del Tevere, perché questa è una zona di esondazione, tant'è vero che è nidificata, e l'autorità di bacino del Tevere ha dato parere negativo rispetto a un'ipotesi di discarica a Pian dell'Olmo. Si tratta di una discarica provvisoria. Pensiamo che purtroppo siamo in Italia e non abbiamo nessuna garanzia né di provvisorietà né soprattutto che ci venga dentro svezzato il rifiuto trattato, perché non è possibile. Non hanno il tempo per mettere su impianti per trattare i rifiuti. chiude definitivamente Blockbuster in Italia. La chiusura definitiva di Blockbuster Italia ha il sapore della fine di un'era. È vero che si trattava solo di negozi in cui noleggiare videocassette prima, videogiochi e DVD poi, ma la sensazione è che della catena americana avremo nostalgia, un po' come è capitato per i film in bianco e nero o per i telefoni con la rotella. Tra i non giovanissimi alzi la mano chi non ha mai avuto la tessera d'abbonamento. Costava 10.000 lire quando nel 1994 a Milano aprirono le prime filiali del colosso mondiale fondato 9 anni prima a Dallas da David P. Cook. Sugli scaffali poche pellicole di qualità, nessun film de sé, tra gelati, bevande, caramelle, gadget, solo DVD campioni di incassi, commedia, avventura, fantascienza, ma poteva bastare. Per la prima volta si poteva scegliere quando e dove vedere un film, senza aspettarlo in televisione e senza rispettare gli orari del cinema. Ora abbiamo la TV on demand, lo streaming, la pay TV, il mercato online, legale o illegale, le macchinette automatiche, ma quella scritta gialla su campo blu ci mancherà. Ha scelto di arrivare alla maggiore età, Blockbuster Italia, per scomparire e lasciare i pochi spazi sopravvissuti ad una catena di parafarmacie. A quanto si sa, solo 82 dei 780 dipendenti verranno riassorbiti dal nuovo business. Sul sito blockbuster.it si legge solo questo: grazie a tutti, l'avventura finisce qui. È stato per noi un piacere divertirvi o semplicemente tenervi compagnia in questi 18 anni. Blockbuster, nonostante l'inflessibilità nel multarci in caso di ritardata consegna, ricambiamo di cuore. L'economia preoccupa il buco di 3,4 miliardi nei conti pubblici per il mancato gettito IVA, mentre il premier Mario Monti accusa i poteri forti di togliere sostegno al governo. Sul fronte della crescita ha rinviato il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sviluppo perché manca la copertura. Preoccupazione anche da parte di Confindustria. L'Italia soffre la recessione e arretra nella top 10 della produzione manifatturiera, una situazione resa ancor più grave dal recente terremoto in Emilia. Un'Italia che arretra e che arranca, soffocata dalla crisi, dal credit crunch e in più con il contraccolpo del terremoto in Emilia che rende ancora più impegnativo e periglioso il quadro. Questa è la fotografia della situazione economica del paese scattata dal centro studi di Confindustria. Preoccupa in particolare la produzione manifatturiera, per la quale l'Italia è scivolata dalla quinta all'ottava posizione, scavalcata da India, Brasile e Corea del Sud. Dal 1991 al 2011 l'export dei prodotti italiani è calato dal 21,5% al 13,9%. Secondo gli industriali è a rischio la stessa sopravvivenza di parti importanti dell'industria. A mettere in difficoltà le imprese soprattutto la violenta stretta al credito che fa mancare ossigeno necessario a resistere, ma anche, sottolinea il presidente di Confindustria Squinzi, l'eccessivo carico fiscale. E a rendere più impegnativa la crisi sono ora le conseguenze del terremoto in Emilia, un'area, scrive il centro studi, ad altissima vocazione manifatturiera, cruciale per lo sviluppo industriale del paese. Con il sisma, dice Squinzi, stimiamo uno stop produttivo di almeno 4-6 mesi e la perdita di qualche frazione di punto di PIL. Il bilancio, ancora provvisorio, conta infatti almeno 500 aziende con gravi lesioni, 5.000 posti di lavoro a rischio e la minaccia che si perdano filiere importanti. Alessandra Schei, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo il commento di Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, intervenuto in Focus Economia al microfono di Alessio Maurizi. Un conto è parlare di produzione industriale, quindi di quota dell'Italia sulla produzione industriale mondiale, e un conto è di capacità di esportare. Sono due concetti che vanno tenuti molto separati e distinti. L'Italia ha perso quote di produzione sia perché c'è un merito di altri, il fenomenale sviluppo dei paesi emergenti da voi citato, e però anche per esempio della Corea del Sud, che è un paese avanzato e che però sta nell'epicentro di questo grande corsa che è quella dell'Asia. Dall'altro c'è il demerito di alcuni di questi paesi, fra cui l'Italia. Allora, il calo della produzione industriale italiana è legato a un tracollo della domanda interna, che non è soltanto dell'Italia ma anche della Spagna, si osserva anche in Francia, si osserva anche in altri paesi, difficoltà di domanda interna. Questo spinge le imprese a cercare nuovi mercati all'estero, per cui la capacità di esportare rimane forte, rimaniamo competitivi anche in termini di qualità di produzioni, di qualità di prodotti effettuati in una serie di settori. Alcuni sono, diciamo, tradizionali: tessile, abbigliamento, cuoio, calzature, pelletteria, e siamo primi al mondo in quello. In altri siamo secondi dietro la Germania, e parlo della meccanica, parlo di prodotti diversi, parlo di manufatti di base. E in questi settori siamo, come dire, abbiamo posti di grande livello e così via. Il punto fondamentale è che in questa fase, con il vuoto di domanda, con i costi di energia che crescono, con il credit crunch, con i tempi di pagamento lunghi della pubblica amministrazione, le imprese rischiano di non farcela. Troppe tasse per la Corte dei Conti frenano la crescita. Il presidente dei magistrati contabili, Luigi Giampaolino. Senza dubbio la pressione fiscale è ancora molto alta nel nostro paese e per evitare che possa ulteriormente aggravarsi bisogna agire sulla crescita. È necessario appunto che siano dotati degli strumenti ai fini appunto di questa crescita, perché il nostro rapporto mette in evidenza come sul lato della spesa e dell'indebitamento anche rispetto al PIL vi sono stati dei progressi. Quello che invece non si è avuto è appunto questo di avere un aumento di strumenti che possano garantire una crescita che consenta lo sviluppo del paese, altrimenti si resta intrappolati in questo aumento di pressione fiscale che porta sempre più poi ad una recessione. E sulla situazione economica sentiamo il commento di Dino Pesole. Se all'appello mancano 3,4 miliardi di entrate tributarie, la notizia non può che allarmare, anche se il Ministero dell'Economia fa sapere che non per questo si può ipotizzare un identico buco a fine anno. Di certo non è ipotizzabile alcun nuovo intervento correttivo sui conti pubblici dopo le tre manovre da 80 miliardi dello scorso anno. Lo ha ricordato ieri la Corte dei Conti. Se non si arresta questa perversa spirale fatta di manovre fiscali che deprimono ulteriormente l'economia, finiamo tutti dentro un vicolo cieco. Allora si tratta di agire con coraggio e celerità sulla cosiddetta spending review per provare a evitare l'aumento dell'IVA in programma dal prossimo ottobre e far fronte alle spese per il terremoto in Emilia senza ricorrere a ulteriori aumenti d'imposta. Poi in sede europea si potrà, potremmo aggiungere, si dovrà puntare qualche margine in più nel percorso di rientro dal deficit. E poi ecco il vero segnale: occorre che il gettito fiscale aumenti per effetto della lotta all'evasione. Si potrà così cominciare ad alleggerire il prelievo su quanti le tasse le pagano regolarmente. E ora parliamo di Fiat. A Termini Imerese niente di nuovo. Sono passati esattamente 6 mesi dalla firma al Ministero dello Sviluppo Economico dei 2 accordi per la reindustrializzazione del sito dove fino al 31 dicembre la Fiat produceva automobili. E sono trascorsi 2 anni e mezzo da quando la Fiat stessa annunciò la chiusura dello stabilimento siciliano. La fabbrica rimane chiusa perché la DR Motor, che doveva subentrare dal 1 gennaio e aveva promesso fino a 1.300 assunzioni, non è in grado di far fronte agli impegni finanziari. I circa 1.500 operai ex Fiat sono in cassa integrazione fino alla fine del 2013 e 640 di loro, i cosiddetti esodati, sono in attesa di sapere se e a quali condizioni potranno approdare alla pensione. Che la proposta di Massimo Di Risio fosse finanziariamente zoppa lo sapeva il Ministero e lo sapeva l'advisor Invitalia, così come lo sapevano gli operai della DR Motor di Isernia, che ricevono gli stipendi a singhiozzo, e le banche che fin dal 2010 stavano discutendo con l'imprenditore molisano una ristrutturazione del debito. Il Ministero annuncia ora la riapertura della procedura per la riconversione di Termini. Visti i precedenti, è difficile essere ottimisti. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso apriamo la pagina politica. Critiche alla casta dopo le nomine all'autority della privacy e della GCOM, eletta anche la moglie di Bruno Vespa, Augusta Iannini. Votano i propri candidati PDL, Lega e PD, protestano i DV radicali, ma qualcuno nei democratici non è d'accordo, come Arturo Parisi. Più che la logica di lottizzazione, quindi di spartizione da bravi fratelli e da buoni amici, è l'idea della autorità che è chiamata in causa. Pensavo che fosse venuto finalmente il momento per chiuderla e quindi per scegliere dei candidati che andassero lì non in rappresentanza delle parti, ma in nome della competenza e della loro autonomia per decidere come se fossero i giudici nell'interesse di tutti. Avendo preso atto che il partito era guidato dall'idea di nominare un suo candidato di partito, perché non è una novità, solo in modo leggermente più complicato, perché hanno fatto finta di raccogliere dei curriculum. Ancora stamattina c'ho email, l'indicazione che arrivavano dei curriculum, una cosa da ridere che serve solo a farsi male. A questo punto voglio vedere che ci vada ai cittadini a parlare di trasparenza, di conflitto di interessi, di meritocrazia, di merito. Nello stesso giorno, mercoledì 6 giugno, il Senato vota no all'arresto di Sergio De Gregorio, coinvolto per i fondi all'Avanti, diretto da Walter Lavitola. Il senatore viene salvato dal voto segreto. Nei partiti PD e PDL invece aprono le primarie per la premiership, mentre stallo sulla legge elettorale. Situazione però sempre caotica nel centro-sinistra. In 24 mattina Alessandro Milan ha intervistato il sindaco di Bari, Michele Emiliano, del Partito Democratico. Lei condivide l'analisi di Fassina che dice bisogna votare, si potrebbe votare a ottobre, c'è questa voglia di voto che Bersani pare l'abbia fatto arrabbiare abbastanza? Mi creda, io ho sempre ritenuto il passaggio del governo Monti probabilmente un passaggio necessario, ma da chiudere il più presto possibile, quindi come posso dire, in teoria sarei dalla parte di Fassina, cioè prima si vota meglio è a questo punto, perché il governo ha esaurito, diciamo, le sue possibilità di intervento, non credo che possa fare molto altro. Però capisco anche che quando si prendono degli accordi bisogna mantenerli, quindi, uomo d'onore. Fino al 2013. Senta, Grillo che cosa le suscita? Cioè, non è che vuole copiare Grillo? Il metodo di Vittorio? Devo essere sincero, sì. Io ovviamente molto in piccolo, credo di aver anticipato Grillo di molti anni. Nel senso che noi abbiamo dato vita ad un fenomeno civico qui a Bari senza del quale il centro-sinistra non avrebbe mai vinto le elezioni. Se la sente Grillo, questa la prende in giro su questo. Grillo ha fatto un comizio qui nel 2009 quando si sono candidati. Ma lei fa parte di un partito, Emiliano, cioè il Partito Democratico, non è che Grillo vorrebbe abbatterli i partiti. Faccio parte di un partito come si fa parte di un partito nel 2012, cioè i partiti sono delle entità, come posso dire, molto più lasse e vaghe di quanto non fossero intorno a 10 o 20 o 30 anni fa. Adesso io non so come i cittadini se li immaginano, ma fare vita di partito oggi è molto complicato, difficile persino riunirsi, vedersi, le sezioni sono spesso chiuse, non c'è neanche una vita quotidiana che consenta di frequentare i partiti come si faceva una volta, o uno è disoccupato, non c'è niente da fare e allora si dedica solo alla politica, oppure è durissimo in questi tempi con le giornate di lavoro che abbiamo tutti noi fare politica in un contesto di partito. Intanto poi sono tutti nominati, quindi perché fare vita di partito? Tanto poi cioè, nel senso che uno che dovrebbe, diciamo che almeno di questa legge elettorale il PD ha responsabilità relative. No, comunque lei ha anticipato Grillo di anni, secondo sul suo modesto parere. Qui nel 2009 mi assegnò un titolo al quale io sono molto affezionato, il sindaco meno peggio d'Italia. E peraltro devo essere sincero, è persona nei rapporti interpersonali assolutamente garbata, al di là della tecnica di comizio. Che Grillo garbato è proprio forse l'aggettivo che come persona. Noi durante i comizi elettorali insomma siamo molto violenti. Sì. L'uso delle parole. In modo particolare, peraltro con una efficacia straordinaria. Io cerco di tenere aperto un dialogo con lui e con tutte le persone che lo sostengono, perché molte delle cose che dice non sono sbagliate. Ecco, ma certo, ma Grillo adesso tutti un po' lo seguono come anche un faro. Il mondo della musica italiana si mobilita a favore dei terremotati dell'Emilia. Il tastierista dei Nomadi, Beppe Carletti, nato nel Modenese, ha organizzato un concerto di beneficenza per raccogliere fondi. L'evento si terrà il 25 giugno a Bologna, nello stadio Dall'Ara. Tra gli artisti emiliani Doc si cura la presenza di Guccini, Ligabue e Laura Pausini. Vasco Rossi invece ha declinato l'invito. Sentiamo Beppe Carletti al microfono di Paolo Panceri. È la mia terra, quindi qua ci sono nato, qua sto vivendo, qua ho le mie radici, sono nati i miei genitori, ci sono nato io, sono i miei amici, tutto insomma, la vita, no? È la vita che ho passato in questa regione qua, la vita che han passato, che stiamo passando anche tutti gli artisti dell'Emilia Romagna, quindi la molla è stata questa, no? fatto comunque di vedere una disperazione ad un livello mai pensato, che abbiamo sempre visto per televisione. Pensavamo di essere intoccabili e immuni a queste cose qua, a un certo punto ci siamo accorti che veramente il sogno di una vita è svanito in 32 secondi. La musica è anche un compito, secondo me, della musica, di sensibilizzare e di arrivare al cuore delle persone. Cesare Cremonini, ospite di Essere Benessere con Nicoletta Carbone, ci parla del rapporto che ha con la sua terra, l'Emilia, soprattutto alla luce di questo momento così difficile. Ma innanzitutto devo dire che la parola radice è proprio quello che in qualche modo torna alla mia mente in questi giorni, perché noi siamo un popolo, noi emiliani, molto legato alla nostra terra, una terra che non ci ha mai tradito. Almeno da ricordo d'uomo non ci ha mai tradito. Siamo un popolo di origine contadina che ama il proprio lavoro e ama profondamente la propria terra, quindi ci ha destabilizzato molto psicologicamente questo. Però io, il lato B di questa faccenda molto triste e dolorosa, che è inquietante perché non capiamo più se potrà finire a breve termine o no, è che comunque va ricostruito anche il sorriso ogni giorno, prima di iniziare a costruire le case, prima di iniziare a collaborare. Va comunque ricordato, dato che il terremoto non è un male, come dire, con un pregiudizio nei confronti dell'umanità dietro, è purtroppo o per fortuna una cosa naturale che va accettata e bisogna conviverci quando c'è. E quindi il sorriso è una delle cose che va ricostruita in qualche modo. Quando è uscito il mio disco, è uscito una settimana e mezzo fa circa, ovviamente ho pensato di essere fuori luogo a portare una copertina così colorata, a portare così tanta gioia ed entusiasmo anche dopo 2 anni di lavoro, in un momento in cui proprio vicinissimo a casa mia, ed è un luogo in cui che amo molto, ma in cui sono anche molto amato, no, la mia terra, mi sono sentito in imbarazzo, ecco. Mi sono sentito un attimo a disagio a dover portare in quell'istante preciso qualcosa di questo genere. Ho avuto la sensazione di dovermi trattenere e ho ricevuto, senza averlo chiesto, una enorme, ma questo lo rivolgo anche a voi come radio, no? Come persone che parlano alla gente, chi in questo periodo storico, in un momento preciso, parla attraverso la musica, attraverso la voce di una radio in cui fa intrattenimento, anche in maniera leggera alle volte o allegra, in realtà è di enorme aiuto. Ho ricevuto un'enorme, gigantesca quantità di messaggi di ringraziamento, di cui non merito nulla, però per aver portato nello stesso istante in cui c'era un così grande problema qualcosa che potesse spensierare la mente delle persone. Mercoledì è morto a 91 anni lo scrittore americano Ray Bradbury, autore di fantascienza. Era famoso per aver scritto Fahrenheit 451, dove si immaginava che leggere libri era proibito. Che rappresenta per la storia della letteratura? Alessandra Tedesco l'ha chiesto al critico ed esperto di letteratura americana Luigi Sampietro. Un punto di riferimento, appunto, internazionale. Ha colpito l'immaginazione soprattutto dell'Occidente, ma anche probabilmente di chi viveva al di là della cortina, che allora si chiamava Cortina di Ferro. Il libro è uscito nel 1953, quindi in piena guerra fredda, e il 1953 è anche l'anno dell'esecuzione dei coniugi Rosenberg. Il clima era pesissimo, sembrava di essere sull'orlo di una guerra atomica, e Fahrenheit 451 ha rappresentato il grido d'allarme che curiosamente per Bradbury riguarda ciò che riguarda personalmente anche me da vicino, cioè il mondo dei libri. Bradbury è sempre stato convinto che la distruzione delle biblioteche o dei libri fosse la fine della civiltà. E, tra l'altro, c'è una sua battuta diventata famosa che dice che l'Unione Sovietica, che era il grande nemico dell'epoca e poi per ancora qualche decennio, è crollata nel momento in cui sono state inventate le fotocopiatrici. Le fotocopiatrici sono state lo strumento della riproduzione dei volumi proibiti, che nell'Unione Sovietica erano proibiti, che potevano circolare. Quindi i libri sono qualche cosa che chi vuol detenere o tenere il potere con pugno di ferro, limitando la libertà delle menti altrui, costringe a fare una brutta fine. I libri sono il nemico numero uno delle dittature. Bradbury è stato comunque uno scrittore di fantascienza che in qualche modo ha rivoluzionato anche questo genere letterario. In che modo? Ma l'ha rivoluzionato nel senso appunto che si è concentrato con questo famosissimo libro sull'aspetto della cultura. Dall'altra parte ha proseguito in quella che si può chiamare la dimensione dell'avventura. Bradbury diceva di se stesso, ancora pochi anni fa, era oltre ottantenne, che è sempre rimasto un adolescente. Dice: io sono un bambinone adolescente che ama il rischio e ama l'avventura. Quindi la fantascienza, l'intrusione, la scoperta della dimensione di nuovi mondi, oltre a essere un cliché, diciamo, un luogo comune nel senso buono del termine, tipicamente americano, ovvero sia la scoperta della nuova frontiera, di una ulteriore frontiera, perché una volta arrivati a congiungersi con le popolazioni che vivevano sulla costa della California, all'immaginario americano non rimase che proseguire la sfida che in termini limitati è la sfida contro l'Unione Sovietica, in termini più fantasiosi è la sfida romantica contro la dimensione dell'infinito. E quindi i personaggi di Bradbury, la fantasia di Bradbury ha alzato gli occhi al cielo tenendo presente sempre i sovietici, gli altri, i nemici, e però alzando i porti al cielo, gli occhi al cielo, tentando di vincere la battaglia, vincere la corsa, curando con la coda dell'occhio quello che facevano gli altri. Questa è in fondo la dimensione della fantasia, dell'immaginazione di Bradbury. E anche per questa puntata di Punto a Capo è tutto. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi do appuntamento a sabato prossimo.